Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, la nuova legge sui talenti, gli sviluppi dell'interporto bolognese e ancora alcuni dei question time presentati nell'ultima seduta di consiglio, l'avvio dei lavori dell'annuale sessione europea e il punto sugli aiuti dell'Emilia-Romagna per il popolo ucraino. La regione investe sui giovani talenti e adotta misure per attrarre e trattenere in Emilia-Romagna ragazze e ragazzi con elevata specializzazione negli ambiti della ricerca e dell'innovazione. L'Assemblea Legislativa ha infatti approvato a larghissima maggioranza e con un solo astenuto, la nuova legge sui talenti, che prevede incentivi per nuove assunzioni, percorsi di alta formazione e servizi di welfare, ad esempio per la casa. Sentiamo la relatrice di maggioranza, Francesca Marchetti, del Partito Democratico. Una legge identitaria di grande senso valoriale perché parte dal presupposto che l'Emilia Romagna vuole essere sempre più una regione a misura di ragazze e di ragazzi e puntando proprio sull'investimento, sul capitale umano e su tutte le misure ad esso connesse. Credo che sia l'investimento più proficuo e significativo che questa regione ha messo in campo attraverso questa legge per permettere a ognuno di sviluppare le proprie competenze e costruire una regione della conoscenza. Un obiettivo, quello della legge, che mira anche al rientro dei cosiddetti cervelli in fuga. Lo sottolinea il relatore di minoranza Gabriele Del Monte della Lega. Abbiamo approvato questa legge che secondo noi durante il percorso in commissione e in aula è stata nettamente migliorata dagli emendamenti anche delle opposizioni. Oggi si cercherà da ora in poi in Regione Emilia Romagna di non far più fuggire i cervelli creando intorno a loro un contesto che li possa aiutare dal welfare ai trasporti pubblici locali a tutto quello che possa essere necessario per trattenerli qui e valorizzare il nostro territorio. Le misure previste dalla nuova legge sui talenti coinvolgono l'intero sistema regionale, dalla produzione alla formazione, dall'università alla ricerca. Sul fronte delle risorse sono previsti da subito 2 milioni di euro sul bilancio 2023 per nuove assunzioni, ma l'investimento complessivo, ha sottolineato la Giunta regionale, prevede oltre 115 milioni. E adesso parliamo di logistica, sempre più importante la gestione e movimentazione delle merci in chiave sostenibile. All'interporto di Bologna sono partiti i primi cantieri per l'ampliamento del terminal ferroviario. Sono previsti 5 nuovi binari, aree di carico-scarico e stoccaggio merci per uno sviluppo complessivo di oltre 115.000 metri quadri. Nel frattempo è in fase di completamento il progetto per una delle più grandi comunità energetiche del nord-est d'Italia, che attraverso 800.000 metri quadri di fotovoltaico permetterà di produrre 50 megawatt. È quanto emerso dalla visita sul posto dei componenti della Commissione Territorio presieduta da Stefano Caliandro. Sentiamolo. Una realtà che vorremmo rilanciare sia per dare risposte nell'ambiente sia per dare risposte sulla logistica. Si tratta di investimenti importanti che possono permettere nella zona del medio bacino padano una realtà di crescita ecosostenibile e che permette di dare posti di lavoro qualificati anche attraverso una carta etica che questa realtà ha messo in campo e che noi abbiamo molto apprezzato e sostenuto. Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, già relatrice della legge sulle comunità energetiche, è favorevole ai progetti di rilancio dell'interporto, ma avvisa con un maggiore coinvolgimento dei territori. Per integrare meglio appunto questa infrastruttura e per provare anche a dare una risposta di tipo ambientale sicuramente, ma anche di tipo sociale alle popolazioni e ai cittadini che vivono proprio qui nei dintorni appunto dell'interporto, perché c'è un tema sicuramente di qualità dell'aria, di surriscaldamento globale, ma c'è anche un tema appunto di cara energia. Il potenziamento ferroviario con la costruzione del nuovo terminal prevede investimenti per 37 milioni di euro. Aggiungendo il progetto energetico, la costruzione di edifici altamente sostenibili e la messa in opera di fasce boscose di mitigazione, l'investimento salirà a 66 milioni totali. Intervenire concretamente sulle crisi mondiali in corso, moltiplicare gli sforzi per una transizione verde e digitale e rafforzare l'economia sociale. Questi i principali obiettivi del programma di lavoro per il 2023 della Commissione europea, illustrati in Commissione bilancio per l'apertura della sessione europea con Europe Direct Emilia Romagna. Si tratta della prima tappa di un percorso che si concluderà a metà maggio, quando giungerà al voto una specifica proposta di risoluzione con le osservazioni che la Regione segnalerà al Parlamento in merito alle iniziative dell'Unione, considerate di interesse per l'Emilia Romagna. Un importante esercizio di democrazia partecipativa su scala europea, ha commentato la Presidente dell'Assemblea, Emma Petitti. Massimiliano Pompignoli, Presidente della Commissione Bilancio, anticipa i temi che verranno trattati. Da qui partiamo, vediamo appunto quali sono i temi caldi che ce ne sono. Ovviamente io penso già alle auto nel 2035, diesel e benzina, penso anche alle case green, sono comunque questi argomenti che affronteremo anche nel corso di questa sessione e cercheremo di trovare una sintesi, dare delle risposte utili all'Europa e al governo nazionale come Regione Emilia-Romagna. E ora alcuni question time affrontati nel corso dell'ultima seduta di Consiglio. Quattro distinte interrogazioni presentate da altrettanti gruppi assembleari hanno affrontato il tema del blocco delle cessioni del credito da parte delle banche per il superbonus del 110%. Con diversi accenti, Lista Bonaccini, Rete Civica, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto il coinvolgimento della Regione nell'acquisizione dei crediti dalle banche, al fine di sbloccare il settore edilizio e dare ossigeno a cittadini e imprese. Sentiamo Marco Mastacchi di Rete Civica. I cassetti fiscali delle banche sono pieni di crediti che non riescono a cedere e crediamo che un intervento della Regione in questo senso potrebbe essere molto utile per salvare tante imprese e di conseguenza anche tanti posti di lavoro che altrimenti rischiano veramente di andare in crisi. Anche da Giulia Pigoni della Lista Bonaccini è arrivata la sollecitazione ad intervenire, così come altre regioni ed enti stanno facendo. La risposta dell'assessore Paolo Calvano ha trovato consenso diffuso. Sentiamo Pigoni. È stato aperto un tavolo con banche ed imprese del settore edile proprio per cominciare ad affrontare questo tema. È chiaro e naturale che benissimo questo primo passaggio, questo primo tavolo, serve una normativa nazionale che tuteli anche gli enti che decidono di procedere in questo senso. Bene che ci si stia muovendo, abbiamo bisogno di però essere più celeri. Sulla carenza di personale negli uffici della motorizzazione civile verte il question time di Federico Amico, di Emilia Romagna Coraggiosa. I lavoratori sono in mobilitazione, ha ricordato, e chiedono assunzioni per recuperare il mancato turnover di questi anni. La situazione di sottorganico ha anche un sensibile risvolto economico, perché gli utenti per alcuni servizi devono ora rivolgersi ai privati, sostenendo costi molto più elevati. Il question time voleva capire se eravamo al corrente e se possiamo spingere il governo a integrare l'organico di questi uffici. La risposta dell'assessore Colle è stata positiva, adesso io solleciterò anche le organizzazioni sindacali perché chiedano un incontro all'assessorato, perché questo significa, diciamo così, contrastare un arretramento dei servizi pubblici a favore dei cittadini. Con riferimento all'impatto acustico e atmosferico prodotto dagli aerei che partono dall'aeroporto Marconi di Bologna, Silvia Zamboni di Europa Verde, in un question time, ha chiesto aggiornamenti sullo stato di attuazione dello studio sulle rotte commissionato a ENAV per minimizzare i sorvoli sulla città. Lo studio è completato, ha informato l'assessore. Sentiamo Zamboni. Europa Verde è impegnata da inizio mandato a seguire appunto la vicenda di questa larga fetta di popolazione bolognese impattata dal rumore, trovare delle rotte che consentano di evitare il sorvolo a bassa quota dei quartieri abitati è sicuramente una buona notizia. È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina ed è tempo di bilanci Commissione Cultura per la specifica legge regionale varata a sostegno del popolo ucraino. L'impegno della Regione in questi mesi si è concretizzato nella distribuzione di beni di prima necessità nelle terre colpite dal conflitto e nell'accoglienza e sostegno psicologico dei profughi giunti in Emilia-Romagna. Grazie a un finanziamento regionale di oltre 1.800.000 euro, gli interventi sono stati realizzati con il coinvolgimento di associazioni laiche e religiose e dei comuni o unioni di comuni. Per Francesca Maletti del Partito Democratico è necessario reperire altre risorse per rendere possibile la continuità dei progetti. Proprio perché si è data la possibilità a cittadini e imprese della Regione Emilia-Romagna di poter donare il loro denaro, che è stato utilizzato attraverso associazioni ed enti locali per dare risposte sia in Ucraina ma anche in Emilia-Romagna, che ha accolto circa il 25% degli sfollati che sono arrivati in Italia. Luca Cuoghi di Fratelli d'Italia ha evidenziato il senso di solidarietà dimostrato dai cittadini e l'importanza di essere presenti in quel territorio. Questo ci sembra un buonissimo esempio di solidarietà ben realizzata, solidarietà che però deve sempre essere attenta soprattutto a quelli che sono i bisogni del territorio, per cui dobbiamo sempre, quando si fanno queste operazioni, appoggiarci a reti già costituite e presenti in maniera capillare nel luogo.